10:30 in punto. Euskal Herrian baikaute, errepresioaren menpe, bi estaturen artean, jotak esegi lanean. E come ogni lunedì a quest'ora arriva Radio Euskadi, la musica, la politica, la cultura dal Paese Basco e non solo. Oggi anche con una nuova o con un'altra sigla, visto che è una puntata un po' speciale. Puntata dedicata interamente alle elezioni generali che si sono tenute ieri, ne abbiamo parlato a lungo anche nel corso della rassegna stampa. Lo faremo anche nel corso di Radio Euskadi, ovviamente. In particolar modo ci sarà un lungo collegamento direttamente con Bilbao. Per analizzare le novità, a dire il vero, abbastanza, come dire, annunciate di queste elezioni. Ma anche per fare un po' di chiarezza su molte cose che abbiamo letto stamattina e, come dire, peccavano a volte di superficialità. Sotto di noi intanto scorre Goasen, un hit techno pop di qualche annetto fa. Allora, 10:34 minuti primi, andiamo dunque a cominciare questa puntata di Radio Euskadi che sarà in gran parte occupata dalle corrispondenze direttamente con il Paese Basco. Prima però di collegarci oltre Pireneo, un brevissimo riassunto di come sono andate le elezioni di ieri. Elezioni, lo ricordiamo, anticipate, si sarebbero dovute tenere all'inizio della primavera prossima. Zapatero, su impulso anche di dell'Unione Europea, della Banca Centrale, insomma, quelli che vengono in varia misura definiti poteri forti, ha annunciato le elezioni anticipate qualche mese fa per cercare di porre un freno in qualche modo alla crisi economica, e elezioni che annunciavano a livello nazionale il trionfo del Partito Popolare, e così è stato, anche se in realtà, e lo vedremo fra poco, non di trionfo del Partito Popolare si tratta, ma di debacle del Partito Socialista. I flussi elettorali andrebbero analizzati seriamente, cosa che raramente si fa. Comunque, il Partito Popolare sostanzialmente mantiene i voti che aveva ottenuto alle ultime elezioni del 2008. Quello che cambia sono i milioni di voti persi dal Partito Socialista, milioni di voti che si sono andati a rifugiare o nell'astensionismo, che è aumentato abbastanza. Già nello Stato spagnolo si vota di norma con percentuali non altissime, stavolta l'affluenza alle urne è stata più bassa del solito, e quindi o astensionismo oppure il voto ex socialista si è andato a dirigere verso altri partiti minori, in particolar modo Izquierda Unida, che ritorna ad avere un gruppo parlamentare, ma anche varie forze autonomiste e o indipendentiste di ambito basco, catalano, gallego, insomma le varie i vari luoghi dello Stato spagnolo, dove lo Stato spagnolo ha qualche problema. Un brevissimo intermezzo musicale, poi una breve sintesi delle elezioni, quindi ci collegheremo con Bilbao. Hola, muy buenas. Vamos todas. Salve, Regina, Mater Misericordia, Mater Misericordia. Allora, prima di collegarci con il Paese Basco, stamattina ovviamente messe infinita di articoli e reportage, persino sui giornali di casa nostra, in merito alle elezioni spagnole. Il punto da tutti segnalato è questo trionfo del Partito Popolare, che vedremo è un trionfo relativo. C'è qualche accenno rapidissimo, brevissimo, anche sull'altro trionfo elettorale, quello della sinistra indipendentista basca, che diventa la prima forza del Paese Basco praticamente, e riesce a mandare a Madrid 7 deputati, cosa che non avveniva dall'ormai lontano 1989, quando all'epoca deputato di Herri Batasuna, Josu Muguruza, fu assassinato proprio il giorno prima l'apertura delle Cortes di Madrid. Molti giornali di casa nostra dicono la prima volta che la sinistra indipendentista basca manda dei deputati, e vabbè, siamo nella consueta imprecisione, diciamo così, di casa nostra. E un breve, ma tutto sommato è piuttosto ficcante intervento, sintesi abbastanza esaustiva delle elezioni di ieri, ci arriva probabilmente da, dal sito Peace Reporter, in un articolo breve che vi leggiamo, il cui titolo già la dice lunga e crediamo sia la giusta lettura delle elezioni di ieri. Vince la destra di Rajoy, anzi perdono i socialisti, così titola Peace Reporter. Maggioranza assoluta per il Partito Popolare, ma i suoi elettori sono gli stessi del 2008. I socialisti ne hanno persi invece oltre 4 milioni. Torna Izquierda Unida, Convergència i Unió, la formazione autonomista catalana supera i socialisti in Catalogna. A Mayur, la formazione della sinistra basca, debutta in grande. Insomma, è un po' quello che è successo tante volte qui in Italia quando si è gridato più volte al trionfo di Berlusconi, trionfo di Berlusconi che invece altro non era, ragionando sui flussi elettorali, proprio se non una sconfitta degli avversari di Berlusconi. Si potrebbe ragionare a lungo di questo, ma i giornali di casa nostra di solito, insomma, vanno avanti abbastanza con l'accetta. Ma leggiamo che cosa dice Peace Reporter. Ha vinto Mariano Rajoy, ma la notizia sta nella debacle socialista. Rajoy ha vinto più di José María Aznar, che lo volle come candidata alla sua successione nel 2004, quando cominciò invece l'era Zapatero. È interessante notare che Rajoy, prima di essere per due volte candidato a premier sconfitto e poi ieri ha finalmente vinto, si è fatto le ossa come ministro degli interni dell'epoca premier conservatore Aznar, e ieri se la vedeva con Pérez Rubalcaba, candidato socialista, che anche lui era ministro degli interni nel gabinetto Zapatero, e a riprova insomma di come nello Stato spagnolo vengono affrontati certi temi. Ma continuiamo a leggere Peace Reporter. Una maggioranza assoluta, 186 seggi contro i 110 dei socialisti, capitanati dall'esperto Alfredo Pérez Rubalcaba, che non è riuscito nell'impossibile impresa di rivoltare un risultato già scritto da mesi. Un rapido sguardo, al di là della destra e dei socialisti, risorge Izquierda Unida, si conferma positivamente Convergència i Unió Catalana, lo storico partito autonomista catalano, debutta con un enorme successo la coalizione basca indipendentista Mayur, che strappa 7 seggi, ben 2 di più rispetto al partito nazionalista basco. Unión Progreso y Democracia, una nuova formazione nata da una costola del Partito Socialista, si afferma ma con un rapporto fra elettori e seggi che la mortifica, ma questa è la particolare legge elettorale spagnola. Si tratta di un partito che è andato molto bene a livello di percentuali generali, ma che poi si è visto, ha visto ottenere un numero di seggi assolutamente risibile. Questo perché nello Stato spagnolo c'è una legge elettorale che è apparentemente proporzionale, ma poi al proprio interno ha dei meccanismi che la rendono decisamente maggioritaria. Tant'è che il Partito Popolare a livello di voti non supera il 44% dei voti totali, ma a livello di seggi ha la maggioranza stra-assoluta. E ancora si domanda Peace Reporter, gli indignati, ne parliamo qui sotto o almeno proponiamo delle ipotesi, perché i flussi elettorali non sono cose da cronaca speech. Su questo siamo assolutamente d'accordo, purtroppo spesso ci si occupa di flussi elettorali in maniera speech. Ci sono almeno 4 fatti molto importanti dentro il voto del 20 novembre degli spagnoli, sintetizza Peace Reporter. Il primo, i numeri dei votanti, per capire che cosa sia avvenuto in questo trionfo del Partito Popolare. Ebbene, i votanti della destra si sono mostrati semplicemente fedeli. Fra il 2008 e il 2011 raccolse in tasca una maggioranza senza precedenti, prendendo però solo 500.000 voti in più. Nel 2008 ne aveva totalizzati 10.200.000, adesso sono circa 10.700.000. Il Partito Socialista, da 11 milioni e rotti di voti, ha subito una voragine di 4.300.000 voti. Un dato che ha dell'incredibile. Restando sui numeri, Convergència i Unió Catalana aumenta di 300.000, la nuova, questa Union Progressi Democrazia, questa costola dei socialisti, prende 800.000 voti. Amaiur, la coalizione della sinistra basca indipendentista, debutta con oltre 330.000 voti e 7 seggi. I numeri. Poi il secondo fatto, che a Pesaro Porter evidentemente fa molto piacere, risorge Schierda Unida, cioè la coalizione della sinistra a sinistra del PSOE. Caio Lara, coordinatore del partito, è riuscito, grazie alla crisi, a riportare la formazione di sinistra da 2 a 11 seggi, con un saldo positivo di più 700.000 votanti. Un grande successo, dice Pesaro Porter, che permetterà a Schierda Unida di tornare a fare un gruppo parlamentare. Terzo fatto, Amaiur, la coalizione della sinistra basca, per la prima volta alle politiche ha fatto centro. I baschi di una variegata sinistra indipendentista sono riusciti a sopravanzare i democristiani più vecchi d'Europa, cioè il Partito Nazionalista Basco, che si è fermato a 5 seggi mentre Amaiur ne ha conquistati 7. E al di là dei numeri del Parlamento Nazionale Spagnolo, l'effetto del voto nelle province basche è dirompente. Amaiur e il Partito Nazionalista Basco farebbero in questo momento oltre il 50% del voto espresso sul territorio. Il tema basco poi è quello che toccherà più da vicino il nuovo governo, che sarà in prima linea sulla crisi, ma anche sul processo di dialogo da aprire dopo le dichiarazioni di cessazione di attività di ETA. Il quarto fatto, infine, è il voto o il non voto cosiddetto indignato. Appare poco nei titoloni delle pagine online che seguono minuto dopo minuto lo spoglio, eppure il tema è rovente. L'astensione è cresciuta di oltre il 3% rispetto a solo 3 anni e mezzo fa e il voto non valido è cresciuto del doppio in percentuale rispetto al voto precedente. Lì c'è sicuramente una parte del non voto indignato, come è facile sospettare che la quintuplicazione dell'elettorato di Schierda Unida sia legata all'affondamento del Partito Socialista. Da oggi tocca a Rajoy, chissà quale sorprese gli riserveranno i grafici del lunedì nel conteggio dello spread sui titoli di Stato, che ormai è il vero spauracchio di ogni governo europeo. Notte di festa, ma come hanno sottolineato tutti i dirigenti del partito vincitore, da domani mattina ognuno al proprio posto. Questa dunque la sintesi di quanto successo ieri, ma insomma è una sintesi che vi abbiamo anticipato a lungo nel corso degli ultimi mesi. Fra poco ci trasferiremo direttamente nel Paese Basco per vedere che aria si respira dalle parti del Cantabrico. E soprattutto quali sono le prospettive per il futuro, visto che il neopremier Rajoy in tutta la campagna elettorale non ha detto nulla riguardo a quello che sarà la sua futura politica. Staremo a vedere. Quiero aprender a esquiar sin pisar un hospital. E allora siamo al telefono con Nicola da Bilbao. Intanto una buona mattinata, ciao. Ciao, ciao a te e tutti quanti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, grazie per la presenza, doppiamente grazie, insomma, per una mattinata che arriva dopo una giornata particolarmente impegnativa e anche una nottata. È una notte molto impegnativa. Soprattutto. Senti, e allora partiamo da qui. Noi prima, come ti spiegavo, insomma, in privato, abbiamo raccontato un po' i dati, i flussi elettorali, i numeri, eccetera, eccetera. Ecco, che aria tira lì da voi? Che clima si sta respirando, soprattutto in considerazione del fatto che insomma, attualmente la sinistra indipendentista basca è ad oggi la prima forza politica per numero di voti all'interno della comunità basca propriamente detta e la seconda per un pugno di voti in tutte le province basche spagnole. Ecco, che panorama si sta profilando. Ma diciamo che ovviamente questo è un risultato che già questa notte stessa appunto veniva dipinta come un risultato di carattere storico, storico non solo per i numeri raggiunti, non solo per l'affermazione di sette, la conquista di sette deputati e tre senatori, che ovviamente è un risultato splendido, che ci porta ad essere, come tu ricordavi, la prima forza politica nel congiunto dei Paesi Baschi, bensì è un risultato che dimostra come quella scelta avviata due anni fa in maniera unilaterale da parte della sinistra indipendentista e che poi è stata, come dire, succeduta da vari passaggi, di cui quello stesso di ieri è un ulteriore, è la via giusta e soprattutto riceve un mandato chiaro da parte non soltanto dell'elettorato tradizionale della sinistra indipendentista, se non da parte del congiunto, io credo, di un blocco sociale popolare nei territori storici baschi che accompagna questo processo. E quindi diciamo la prospettiva è quella che questo gruppo parlamentare in Madrid giocherà una partita, io credo, molto importante dentro quella che sarà la possibile interlocuzione con lo Stato dentro al procedere del diciamo processo di soluzione politica al conflitto, in primo luogo in relazione a quello che dovrà accompagnare la decisione, anche questa interale, da parte dell'organizzazione armata ETA, che soltanto 20 giorni fa abbandonò la pubblica la lotta armata, annunciò l'abbandono appunto della lotta armata, e però, come dire, dovrà essere accompagnato da quelle che sono come dire, delle formule di soluzione alle conseguenze del conflitto, così come la stessa ETA chiedeva e così come la maggioranza sociale del popolo basco chiede, in primo luogo rispetto alla questione dei prigionieri politici e poi la questione ovviamente anche delle vittime e della desmilitarizzazione del conflitto in qualche misura, quindi le armi di ETA, però la presenza anche della polizia, delle varie forme di repressione statali qui nei Paesi Baschi. Dall'altra parte però si apre anche un altro scenario che è più di carattere prettamente politico, che è quello che questo gruppo di forze che la sinistra indipendentista è riuscita a coagulare intorno a questo scenario è qualcosa che la porta ad essere protagonista assoluto e attore principale nell'insieme dei territori baschi, in alcuni come quello per esempio di Guipúzcoa non solo conferma la sua affermazione delle passate amministrative di maggio, bensì aumenta in maniera cospicua i voti e dimostra anche come c'è, come dire, l'accompagnamento popolare a una gestione del saper fare in maniera diversa la gestione del territorio, che io credo che apra anche uno scenario possibile, così come questa stessa notte i compagni e le compagne che sono stati eletti parlamentari a Madrid annunciavano che quello di dire adesso si apre un nuovo scenario, che è quello di chiedere che questo governo di occupazione qui per esempio nella comunità autonoma basca in Euskadi, fatto da Partito Popolare e Partito Socialista, che cogestiscono in funzione di Stato appunto questo governo antinatura in qualche misura, venga meno e che ci sia il ripristino, diciamo, di quelli che sono i diritti politici e democratici, che in questo decennio sono stati negati alla sinistra indipendentista tramite la legalizzazione, e che appunto danno una configurazione falsata del governo nella comunità autonoma, e quindi chiede già là le elezioni anticipate e la possibilità di un altro passaggio che va a configurare questo scenario, che avanza verso la costruzione di un tempo nuovo per i paesi baschi, che possa venire già nell'anno che viene la possibilità che la sinistra indipendentista sia governo reale di questa parte del paese. Senti Nicola, questo successo di ieri, insomma, era abbastanza previsto, insomma, o prevedibile. E come è stato visto però da Madrid, dalle forze politiche spagnole, anche se insomma siamo a poche ore dalla chiusura dei seggi, e dal mondo dei media? Noi da qui insomma abbiamo soltanto le testate su internet, e ci è sembrato che insomma le notizie che arrivavano dal Paese Basco fossero notizie da mettere in un angolo. Il Paese, che ne so, titolava: c'è anche Amaiura che ha preso 7 seggi, sì. Una novità, appunto. Ecco, al di là, diciamo, dell'imbarazzo nel dover affrontare la questione, c'è qualcuno che sta già pensando alla risposta da dare, oppure siamo ancora in fase di festeggiamenti per Rajoy? E se ne parlerà in un secondo. Ma io credo che la risposta sia in quello che tu dicevi, voglio dire, il profilo basso con il quale si è annunciata questa vittoria nei Paesi Baschi da parte di Amaiur, io credo che è la lettura, ci porta una lettura di grande rispetto, chiamiamolo così, ed è una cosa molto strana e assolutamente nuova, io credo, che normalmente tutto quello che si legge e si annuncia da Madrid sui Paesi Baschi, o quello che succede nei Paesi Baschi, in particolar modo dentro il versante della sinistra indipendentista, viene annunciato con strilli, appunto chiamando all'unità antiterrorista, con annunci di vario tipo e natura e quant'altro. Invece diciamo, questo esito, che sicuramente era annunciato, però si era cercato in tutta quanta la campagna elettorale, tramite anche i sondaggi eterodiretti pilotati da Madrid, da parte per esempio del Centro di Investigazione dello Stato, il CIS, che diceva che Amaiur avrebbe avuto solo 3 deputati, eccetera, cioè cercando di ridimensionare quello che invece erano dei dati che sicuramente, voglio dire, il ministro degli interni e la composizione dei due partiti del blocco, diciamo, bipolare di potere in Spagna già controllavano, cioè sapevano benissimo Rajoy e Rubalcaba, così come lo stesso Zapatero, che la sinistra indipendentista avrebbe avuto un buon risultato elettorale. Probabilmente non si aspettavano questo tipo di risultato elettorale, però diciamo che il profilo basso che sia PSOE che è PP, e nello stesso tempo gli stessi grandi giornali che fanno opinione di Madrid, stanno tenendo in queste ore, annunciano, diciamo, una forma di rispetto, e probabilmente, perlomeno questa è una lettura che io spero che poi si trasformi in realtà, annuncia come il prossimo governo della destra del Partito Popolare, a guida di Mariano Rajoy, non avrà nei confronti della questione basca, in particolar modo nei confronti della sinistra indipendentista, di fronte allo scenario che si è aperto negli ultimi mesi, e soprattutto dopo appunto l'abbandono della lotta armata, che toglie una scusa sostanziale allo Stato spagnolo nel poter applicare le vecchie ricette appunto repressive e di ghettizzazione del problema basco, della insorgenza basca. E dopo anche il risultato elettorale di ieri, così importante di Amaiur, io credo che forse questo tipo di diciamo attenzione con profilo basso e rispettuoso, senza stracciarsi le vesti sui terroristi che entreranno per la volta nel Parlamento eccetera eccetera, io credo che forse annuncia appunto un tempo nuovo di interlocuzione, anche questa a bassa voce. Io credo che, come dire, nella cucina, dentro la cucina, si potrà appunto incominciare a intavolare qualche forma di interlocuzione che possa portare a qualche risultato già nei prossimi mesi, perlomeno rispetto alle questioni calde come quelle che ricordavo prima, vale a dire la questione del disarmo e la questione dei prigionieri politici. Senti Nicola, a livello statale la campagna elettorale si è giocata ovviamente soprattutto sui temi della crisi economica e delle politiche economiche e sociali che il governo, sì, il nuovo governo dovrà prendere. Il Paese Basco ovviamente ha tutta una vicenda particolare autonoma, però immaginiamo che sia entrata anche nella campagna elettorale basca questa questione. In che maniera la sinistra indipendentista si è approcciata ai temi della crisi e soprattutto quali sono, se ci sono, le proposte in qualche modo per uscire da questo stato? Io credo che ci sia una doppia lettura, sia rispetto alla questione basca che rispetto alla questione, diciamo, generale statale. Vale a dire che dentro a un processo che caratterizza la situazione, diciamo, lo scenario politico generale dello Stato spagnolo, che si caratterizza con una cristallizzazione di un bipolarismo oramai storico, quindi una forma di alternanza più che di alternativa fra due grandi partiti che sono appunto il Partito Socialista e il Partito Popolare. Dentro questo tipo di crisi economica e dentro anche però una sollecitazione da parte per esempio di un'esperienza che io relativizzo molto parlando con per esempio con i compagni italiani o con altri osservatori che non siano, come dire, spagnoli, che è quello, il fenomeno chiamato degli indignados, no? Del 15M e quant'altro. Io comunque ho aperto una sollecitazione politica che guarda a una critica, cioè che assume un carattere critica, diciamo, a questa gestione bipolare della non solo della crisi, se non, diciamo, del congiunto dei problemi politici nello Stato spagnolo. A questo c'è stata una forma di risposta che leggerei in controluce, da una parte con l'affermazione positiva, in qualche misura una recuperazione storica, così come non accadeva dalla metà degli anni 90, di Izquierda Unida, che passa da due deputati a ben 11, no? E soprattutto raccogliendo voti a livello dello Stato, quindi arrivando quasi a 1.200.000 voti, no? E questo è un dato, io credo, importante per leggere come dire, una domanda sociale che emerge anche dentro la società spagnola, in forma diversificata, perché anche questo poi va letto nella sua caratterizzazione a macchia di leopardo rispetto alla composizione degli stessi territori e come si va a configurare. A questo va accompagnato, da una parte, per esempio, l'affermazione importantissima di Izquierda Unida in quello che storicamente è l'osservatorio elettorale del Partito Socialista Spagnolo, che è l'Andalusia, per cui c'è un travaso molto significativo di voti da Partito Socialista al Izquierda Unida, con quasi un 10% di voti raggiunti in quella comunità da parte appunto della sinistra di origine comunista come appunto Izquierda Unida. Dall'altra parte c'è la tenuta molto buona, che non era affatto scontata, di Esquerra Repubblicana in Catalogna. c'è una buona affermazione della sinistra ecosocialista in Valencia che prendono un deputato, e c'è poi appunto a questo si accompagna la grande affermazione di Amaiur nei Paesi Baschi. Quindi dico, c'è un dato generale, io credo, dentro lo Stato spagnolo di una crescita della sinistra, diciamo, che però si pone un terreno di pratica e contenuti e obiettivi di natura anticapitalista. Rispetto, e questo è un dato io credo molto interessante, che tra l'altro come dire, apre uno scenario anche nuovo nella forma potenziale delle collaborazioni, non solo dentro al Parlamento, quindi nel gioco, diciamo, istituzionale tra i vari deputati delle varie coalizioni e partiti territoriali delle sinistre spagnole, bensì io credo che apre uno scenario nuovo anche di interlocuzioni potenziali, collaborazioni più di carattere invece sociale dal punto di vista delle mobilitazioni. Cioè la stessa origine del movimento, della nascita del movimento degli indignados, e io credo la fine di questo movimento dopo le elezioni di ieri, perché così come si è vissuta questa dinamica, diciamo, di critica sociale nel corso di questi mesi, io credo che dopo la vittoria del Partito Popolare questo tipo di dinamica non sarà più possibile, come dire, le assemblee nella Plaza del Sol, la forma delle accampadas, no? Cioè si gioca questo terreno, su questo terreno di critica sociale, io credo che dopo questa, il potere assoluto conquistato dal Partito Popolare, come dire, ci sarà bisogno di un'altra forma di opposizione, cioè di dar vita a un'opposizione di altro tipo che non semplicemente quello, diciamo, eterogenea, colorista degli indignados, no? E per cui una parte di questo sommovimento, che non è un movimento vero, strutturato, quello degli indignados in Spagna, questa forma, diciamo, di sommovimento e critica sociale dovrà accompagnarsi a altri tipi di caratteristiche e percorsi più di carattere antagonista di lotta, sul quale ovviamente la crescita di voti di quella sinistra nello Stato spagnolo di cui parlavo prima, ripartita per i vari territori regionali, dovrà essere sponda oggettiva. Nei Paesi Baschi la crescita e la vittoria di Amaiur sta dentro questo solco, io credo. Cioè la vittoria di Amaiur è una vittoria non solo che si gioca sul versante indipendentista, senza alcun dubbio è una grande affermazione indipendentista di blocco unitario che è andato accumulando la sua forza nel corso di questi ultimi mesi e quest'ultimo anno, però dall'altra parte anche una domanda sociale forte di alzata sul piano, diciamo, non solo dei diritti politici, dei diritti sociali, quindi la questione economica ha un suo peso. La campagna elettorale da parte di Amaiur non è stata, diciamo, una campagna elettorale centrata sulle proposte di alternativa dal punto di vista economico e sociale. Qua la partita era quella di dire stiamo dentro un processo, questo un processo che deve dare soluzioni al conflitto storico che vive questo paese. Dentro una situazione di crisi la soluzione politica che porti a una indipendenza anche dal punto di vista sociale ed economico ci permette di poter affrontare in maniera diversa la crisi. Ricette vere e proprie sono quelle però che più che della campagna elettorale sono quelle che hanno caratterizzato le mobilitazioni politiche e soprattutto sindacali in corso di questi ultimi mesi, di quest'ultimo anno. Bisogna ricordare che i Paesi Baschi sono l'unico territorio nel congiunto dello Stato spagnolo dove ci sono stati due scioperi generali fatti dalle centrali sindacali che qui sono maggioranza, vale a dire le due componenti del nazionalismo storico, LAB ed ELA, e quindi su questo versante c'è una contraddizione che viene affrontata in termini, diciamo, di lotta sindacale e sociale già da diversi mesi, sul quale ovviamente si innerva per esempio anche la fase nuova di governo, per esempio, del territorio che la sinistra indipendentista sta facendo soprattutto per esempio nella diputazione nella provincia di Guipúscoa o nella stessa capitale di San Sebastian, che negli ultimi mesi sta sviluppando una maniera alternativa anche dal punto di vista dell'affrontare la crisi sociale e quindi per esempio sul terreno occupazionale e così come sulla battaglia per il reddito e il salario garantito è uno degli elementi diciamo portanti dello scontro che in questo momento si sta giocando qui nei territori baschi, soprattutto nei confronti del governo locale del Partito Popolare e del Partito Socialista che governano congiuntamente. Igor, l'ultima domanda che ti volevamo fare riguarda l'opzione elettorale in sé. La sinistra indipendentista basca, come quella irlandese, praticamente quando ha potuto si è sempre presentata alle elezioni, sempre o quasi sempre. E, però insomma mi è parso di notare anche nel dibattito preelettorale, diciamo una sorta di dibattito interno anche sulla opportunità o meno di partecipare alle elezioni. Insomma, un dibattito tranquillo, sereno, però in qualche modo c'è e c'è sempre stato. Quello che mi domando e ti domando, in un contesto generale diciamo più sereno, un contesto in cui insomma chi viene eletto alla provincia, al comune o anche al Parlamento non è in immediato pericolo di arresto, immediato pericolo di incolumità, ecco, c'è in qualche modo, si avverte in qualche modo la possibilità, il pericolo che si possa divenire un'eccessiva burocratizzazione della propria attività politica, mi hai capito, ecco. Sì. Ma come dire, questo è un elemento che sempre è stato presente nel dibattito della sinistra indipendentista. Su questo ovviamente gli anticorpi sono stati tanti, tenendo presente che si viveva una situazione di guerra, una situazione di conflitto con una dinamica armata che ovviamente accompagna come dire, alcuni livelli di garanzia e di rigidezza anche dal punto di vista non soltanto della politica, sino dei comportamenti anche personali, oltre che etici e morali. Questo è stato, diciamo, però anche la questione etica e morale è uno degli elementi distintivi, storicamente parlando, della sinistra indipendentista, no? Io credo che sia anche questo un elemento, diciamo, non solo di trasmissione generazionale, se non di contenuto e di anche di immaginario, che si costruisce come passaggi anche generazionali. Anche i giovani, voglio dire, vivono molto questa sorta di grande forma etica di approccio alla politica e anche alla gestione delle questioni collettive pubbliche, no? E io credo che questo è un elemento molto importante, strutturale, proprio della natura della sinistra indipendentista basca. Dall'altra parte ovviamente c'è un pericolo di involuzione burocratica, c'è un pericolo che sta dentro anche al fatto che in questo momento stiamo parlando che la sinistra indipendentista in quanto tale è ancora illegale. Cioè, quello che è legale sono delle coalizioni elettorali accompagnate dalla presenza di altri agenti che in qualche misura hanno funzionato come un poco da blindatura, no? O da forma di garanzia nei confronti della repressione, in qualche misura, vale a dire la partecipazione per esempio soprattutto di Escuar Cartasuna, del partito Escuar Cartasuna e di una formazione minore come alternativa e soprattutto poi in quest'ultima candidatura con l'appoggio diretto di Al-Alar, che nel corso dell'ultimo decennio, Al-Alar è una scissione, lo ricordo agli ascoltatori e ascoltatrici, una scissione di Batasuna, una scissione a destra di Batasuna che appunto uscì fuori da Batasuna criticando ferocemente la lotta armata, ETA e quant'altro, ed è stata utilizzata questa formazione nel corso di quest'ultimo decennio di legalizzazioni in maniera interessata da parte dello Stato per dire: guardate, non è che si legalizzano le idee, vedete ci sono quelli della LAR che sono indipendentisti però sono buoni, voi invece siete cattivi, classica strategia, eccetera eccetera. Ecco, questo avvicinamento, riavvicinamento anche da parte della LAR ovviamente ha permesso anche un consolidamento di natura elettorale. E quello che accadrà, io credo, in relazione alla possibilità che di cui tu parlavi, appunto, di istituzionalizzazione eccetera eccetera, burocratizzazione eccetera eccetera, io credo che si giocherà su due elementi. Uno, quello che la necessaria costituzione e legalizzazione del partito che ha presentato la sinistra indipendentista, Sortu, che in questo momento è ancora illegalizzato, e il Tribunale Costituzionale nei prossimi mesi dovrà appunto decidere sul ricorso che ha presentato a questa sua illegalizzazione, perché è fondamentale avere una propria organizzazione che sia un'organizzazione autonoma, che permetta ai compagni e le compagne, alle strutture di quartiere, territoriale eccetera, di poter ritornare a far politica in maniera autonoma sui propri contenuti e strategie, vale a dire che una struttura organizzativa di carattere fortemente rivoluzionario e a matrice socialista e antagonista. Io credo che questo sarà il primo elemento forte, perché permetterà di avere non solo peso specifico, se non anche la capacità di gestire le contraddizioni eventuali. Dall'altra parte c'è un altro elemento, che questo sì io credo che è un problema, che in questo momento ci sono tante persone che sono state elette per esempio nei consigli comunali, nelle circoscrizioni, nelle province, nella diputazione forale, eccetera, però la maggior parte di queste persone sono persone che, si avvicinano al mondo della politica da protagonisti, soprattutto da protagonisti della scena istituzionale, per la prima volta, cioè che non hanno storia, cultura e tradizione su questo terreno, proprio perché le pratiche di legalizzazione nel corso di questo decennio hanno fatto sì che migliaia e migliaia di persone della sinistra indipendentista siano state illegalizzate anch'esse, cioè sono inabilitate a poter esercitare funzioni istituzionali o potersi presentare alle elezioni ed essere quindi eletti. Questo è un problema serio, perché centinaia e centinaia di quadri in questo momento sono inabilitati per poter accedere alla vita politica e istituzionale direttamente. E questo io credo che sì, è un elemento sul quale bisognerà cercare di trovare una soluzione, perché ovviamente questi quadri e questo capitale umano, oltre che ovviamente etico e morale, di militanti che vengono dalla lotta direttamente, così come anche la questione del riciclare le centinaia di prigionieri politici che sono dei quadri, in gran parte sono quadri politici di prim'ordine, sarà uno dei compiti primari, io credo, della sinistra indipendentista nel tentativo anche, io credo, proprio di evitare forme di burocratizzazione o derive neostituzionali che sempre sono possibili, però io credo che in questo momento non rappresenti un problema importante, se non invece la questione importante è quella che ricordavo prima, di tenere un partito che permetta la costruzione del proprio lavoro in forma autonoma e soprattutto la costruzione di un elemento di cultura politica che cambi il chip dalla lotta armata e dall'appoggio alla lotta armata a una lotta di carattere pacifico, però non meno radicale e antagonista. Nicola, ti ringrazio moltissimo, sta finendo il tempo a nostra disposizione come al solito per le schede internazionali che sono sempre troppo brevi, e niente, come sempre grazie mille per questi panorami eccellenti che ci fai della situazione politica basca. Avremo modo di risentirci magari a mente un po' più fredde quando riusciremo a capire. Il suo credito anche è esaurito. Benissimo. Riagganciare. Grazie. Eccoci. You have no credit remaining. Please hang up. Votre crédit est épuisé. È finito. Raccoché. Sì. Merci. Benissimo. Tu credito ha terminato. Ce lo dicono quelle, in quattro grazie. Lingue differenti. Ok, ok, abbiamo capito. Danke. E quindi noi salutiamo Nicola da, da Bilbao e come detto anche a lui in prima persona avremo modo di risentirci con calma quando come dire il quadro sarà un po' più chiaro e quando il nuovo governo a guida Rajoy, il nuovo governo del Partito Popolare ci saprà dare qualche indicazione sulle sue future politiche. Abbiamo detto fino ad oggi la campagna elettorale di Rajoy è stata fatta sostanzialmente sul nulla, ha approfittato delle difficoltà del governo socialista. Già da lunedì prossimo però potremo avere un quadro probabilmente più esauriente.